La struttura del corpo cavernoso fu proprio quella che portò me e Andrea a conoscerci. Galeotto full turbinato, insomma. Esatto. In fondo, Salute Uomo, Andrea, è una trasmissione per cercare l'uomo ideale. Amore, non c'è limite a questa voglia di magia. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È l'uomo per me, fatto apposta per me. Eccoci qua, oggi parliamo di disordini nell'urinare e di prostata, la ghiandola virile per eccellenza. Può infiammarsi, ingrossarsi, ma anche ammalarsi seriamente, diventando sede di una neoplasia che oggi ha ancora numeri importanti, ma può, e per fortuna succede nella maggior parte dei casi, godere di ottima salute. Allora io, se siete d'accordo, partirei da qui, da una prostata felice, che sta bene, funziona bene, non dà problemi, insomma la prostata ideale da portarsi in vacanza, ma soprattutto la prostata che ogni uomo vorrebbe avere e mantenere. Iniziamo subito a capire come. Ci aiuta il professor Andrea Salonia, che voi conoscete bene, è il nostro amico di Salute Uomo, uroandrologo all'ospedale San Raffaele di Milano. Ciao Andrea. Ciao Nico. Abbiamo dedicato questa puntata ad un tema che vi sta particolarmente a cuore. Molto, assolutamente molto, perché potrei dire delizia e non delizia di tutti i maschietti il fatto di avere qualche difficoltà nell'urinare, e peraltro avere una prostata felice è sicuramente favorevole al fine di ben urinare, cosa che d'estate ci preoccupa non poco. Invece per la pagina di denari abbiamo in un altro tema, naturalmente, che ci porta oggi nel condominio. Molti dei nostri palazzi nelle prossime settimane si svuoteranno, ma questo non vuol dire che insieme alla maggior parte dei condomini spariscano anche problemi, criticità, imprevisti che sono sempre lì dietro l'angolo. 800 24 00 24, raccontateci come vi state organizzando nel vostro condominio per il periodo delle ferie, se per dire avete lasciato le vostre chiavi a qualcuno, se l'amministratore ha fatto qualche comunicazione, sapete se sarà reperibile, ad esempio raggiungibile. Negli anni passati avete vissuto qualche disavventura condominiale proprio in estate? Allora raccontateci le vostre esperienze. Un uomo è vivo quando respira, un uomo è vitale se fa respirare. C'è un istante nel quale ogni uomo diventa suo padre. Un uomo nascendo conosce l'amore, un uomo crescendo impara ad amare. Allora, c'è Andrea, scusa, la domanda potrebbe sembrare banale, ma almeno forse tutti gli uomini lo sanno, ma la prostata, sì, dov'è localizzata? Perché abbiamo delle idee un po', ad esempio per i reni molte persone pensano che siano piazzati lì di fianco alla, esatto, colonna vertebrale, no? Dove dietro. Ci facciamo, ecco, la prostata, insomma, la prostata ha una sua dignità, ecco, anche di collocazione topografica. La prostata è alla base della pancia, che vuol dire sul pavimento pelvico, alla base della pancia, quello che chiude la nostra pelvi, tutte le ossa, ed è accolta sotto la vescica, attraversata da quel lungo tubo che si chiama uretra, che porta le urine verso l'esterno e che attraversa il pene. È lì collocata tra uretra, quindi alla radice del pene, e la vescica. Come una specie di serbatoio. È un importantissimo serbatoio, purtroppo di cose positive e negative, ma da un punto di vista topografico la sua posizione è estremamente peculiare. Ed è peculiare perché è difficile da raggiungere. È difficile raggiungere per le medicine, per il chirurgo, e allo stesso tempo purtroppo è sede di stati di benessere, quindi la nostra prostata felice, e stati di malessere, la prostata infelice, anche per la sua posizione, che è particolarissima. Però se la prostata è difficilmente raggiungibile, noi siamo raggiungibilissimi. Come? Sì. 800 24 00 24, che è il nostro numero verde che già state componendo. Mi piace, ci sono già gli ascoltatori, fantastico. Il 349-238-6666 se preferite mandarci un messaggio, ma noi vi invitiamo ad andare sulla pagina di Salute Uomo, ci sono le editoriali del professor Salogna, ci sono delle storie di medicina narrativa, ci sono tutte le news che l'equipe del professor Salogna, che in questa ultima puntata prima delle vacanze vogliamo ringraziare, un gruppo di ricercatori brillanti, tutti i ricercatori, parliamo di cervelli, dei cervelli che escono, a volte tornano, e questi cervelli lavorano anche per Salute Uomo e ci forniscono sempre le news, naturalmente in un linguaggio comprensibile anche non addetti ai lavori, e quindi andate, consultate, veramente un patrimonio di informazioni. Ringraziamoli. Allora Andrea, però mi sembra che prostata spesso sia usata un po' come sinonimo di problema. La famosa frase, no? Dottor, c'ho la prostata, la dice lunga sulla fama di questa ghiandola che nell'immaginario maschile, ma credo anche femminile, perché gli uomini poi si lamentano spesso e noi donne dobbiamo raccogliere le loro preoccupazioni, le loro lamentele, è destinata a dare nel breve o nel lungo periodo qualche disturbo. Insomma, sembra che la prostata a un certo punto si debba necessariamente ammalare o debba iniziare a funzionare meno bene. E questo per colpa degli anni, perché sembra un destino ineluttabile. Ecco, questo è un dato estremamente importante, perché tutti i maschi hanno la prostata. Non è che, dottor, ho la prostata, per cui ad un certo punto della mia vita compare questa magnifica ghiandola in mezzo alle gambe e pronti partenza via comincia a dare disturbi. Non è proprio così. Tutti gli uomini hanno la prostata. Una prostata che ha una sua specifica funzione, in linea di massima produce gran parte del nostro liquido seminale, e questo ovviamente serve ai fini della genitorialità, della sessualità, ha numerosissime funzioni. È molto facile che nel corso della vita dell'individuo, a partire fin dalla, diciamo, dall'adolescenza in avanti, le dimensioni della prostata possano crescere. Quanto è grande la prostata? Immaginiamoci una castagna normalmente, non un grosso marrone, una castagna, e pian piano cresce, tanto che non è infrequente sentir descrivere la prostata da parte dei medici, soprattutto gli urologi, come una castagna, un marrone, un mandarino, un limone, fino ad arrivare a dire una prostata come un arancio, che vuol dire no buono, un po' grande, soprattutto se sono le Washington pugliesi, quelle veramente grandi. Speriamo di no. Allora, voglio leggerti subito un messaggio da Francesco piastrellista, che ci scrive: per me, che sono piastrellista, essere piegato tutto il giorno può creare qualche problema alla prostata. Francesco dice: secondo me non giova alla mia prostata. In realtà è giusto pensare che esistano delle professioni per le quali la salute prostatica è messa un po' più a dura prova. Sono però le professioni quali, ad esempio, quelle degli autisti, dei camionisti, dei taxisti, che sono purtroppo costretti per lungo tempo a stare seduti, anche con la necessità molto frequente di posticipare o di dover posticipare il ricorso alla toilette, perché fondamentalmente il contesto lavorativo non permette loro di trovare un bagno immediatamente. Quelle sono professioni sicuramente più a rischio. I ciclisti hanno un'attività tale per cui lo stare per lunghe ore per necessità su un sellino, anche se oggi ne esistono sicuramente di più idonei anche per la salute di una prostata felice, sostanzialmente quella è un'altra delle professioni a maggior rischio. In realtà è il percorso di invecchiamento dell'individuo che mette un po' più a dura prova la prostata, perché come invecchia la pelle, invecchiano i tessuti anche all'interno della prostata, e oggi si parla proprio di una prostata che invecchia e che invecchiando può dare problemi o può dare segno di sé, cosa che prima non dava. Tra poco parleremo naturalmente di sintomi per cercare di individuare i segnali che comunicano che la prostata non stia tanto bene. Star bene. Allora abbiamo Paolo da Milano, Salvo da Palermo e Anna da Bergamo. Iniziamo subito con Anna da Bergamo. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi e grazie mille e complimenti per la trasmissione. Grazie Anna. Allora, io volevo rivolgere una domanda al dottore. Mio marito ha 62 anni, è praticamente 40 anni. Non è più in garanzia, Anna. No, ormai sta per cui tocca tenerlo. Ecco. Non me lo cambiano, no, vabbè, teniamolo. Teniamolo così. Ascolti, è praticamente 40 anni che lui soffre periodicamente di prostatiti. Fatto tutti i controlli, niente. Adesso abbiamo scoperto che ha la tiroide che funziona troppo. Sì. Può essere la tiroide che incide su queste sue frequenti prostatiti? È molto difficile, Anna, che sia così. Non ci sono, che io conosca, dati di scienza e anche di clinica quotidiana che correlino le due cose in modo così stretto, soprattutto per una storia di così lunga data. 40 anni sono moltissimi. È molto più facile che le prostatiti all'inizio fossero esordite a causa di un problema non già legato alla prostata in quanto tale, ma una difficoltà dello svuotamento vescicale. Immagini fondamentalmente due camere comunicanti, la cui porta, anziché aprirsi in modo ampio e libero, sia un po' più ristretta. Il pertugio rende ragione del fatto che l'urina esca con difficoltà. È molto più facile che in quel contesto ad urina che esce con difficoltà corrispondano infiammazioni prostatiche ricorrenti. Che sono le prostatiti. Che sono le prostatiti. Sono frequenti soprattutto anche nei giovani. Non molto. A caso Anna, che ha il marito di 62 anni, dice 40 anni fa. Per cui a conti fatti, ecco, questo le mi permette purtroppo di sottolineare un aspetto, Andrea, se mi permetti, e se dici che è corretto, che si abbina sempre la prostata all'età, no? È un problema dell'età. In realtà la prostatite è un disturbo tipico delle generazioni più giovani. Bravo. Di quelle di cui ad oggi si considera soffrire di prostata che si è ingrossata, perché la prostata è un che po' si è l'anticamera, la prostatite è l'anticamera poi non è detto, ma è frequente il fatto che le prostatiti compaiano in persone molto più giovani. Ci sono ragazzi dai 20 anni in avanti che soffrono di prostatiti. Purtroppo la prostatite in quanto episodio singolo, si chiama generalmente prostatite acuta, è molto disturbante, si associa a febbre, si associa spesso alla necessità di andare ad urinare molto frequentemente, a bruciore al momento della minzione. È un po' come la cistite per noi donne. Sì, un po' più intensa molto spesso, ma perché con sei, i sintomi... Perché sei no, maschio, non sono di parte. Così. No, no, no, ti assicuro, non sono di parte. Il problema reale è che nelle cistiti molto più facile un trattamento repentino e efficace, nelle prostatiti acute spesso non è così facile, anche solo dal punto di vista terapeutico. La scelta di un antibiotico per bocca è sufficiente nel caso delle cistiti femminili, spesso nel caso maschile la prostatite merita molto spesso un antibiotico in muscolo, quindi già questo cambia un po' le sorti. In realtà le prostatiti acute sono spesso singoli episodi. Chi invece, come il marito della nostra ascoltatrice, recidiva, ha un problema molto più serio, che talvolta tende a cronicizzarsi, rendendo la vita di nuovi poveri uomini con prostatiti ricorrenti spesso intollerabile, perché la ricorrenza, la frequenza con cui questi episodi si ripresentano è molto elevata e gli episodi sono estremamente disturbanti. E mentre per alcuni di loro trovo irresponsabile questo germe, è responsabile, lo combatto con un antibiotico adeguato, tal'altra non c'è un germe, si chiamano prostatiti abatteriche, cioè senza l'identificazione di un germe specifico, il trattamento delle quali è veramente difficoltoso e spesso vengono chiamate tomba dell'urologo, perché il malato è estremamente disturbato, la sua vita è estremamente squalificata da questo disagio, ma al pari non c'è una terapia specifica sufficientemente efficace. Andiamo prima a Palermo, sì, e poi saliamo a Milano dove ci aspetta Paolo. Intanto saluto Salvo, ci chiama da Palermo, 800 24 00 24, utilizziamo oggi proprio questo numero verde per usufruire di un servizio che oggi vorremmo intitolare Il Medico Risponde. Eccoci. Perché dalle domande degli ascoltatori Andrea Salogna coglierà l'aspetto per dare delle indicazioni generali a chi ci sta ascoltando. Sì. Perché la prostata è fatta nello stesso modo per tutti, per tutti. E così si comporta. Porta. Salvo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e complimenti. Buongiorno. Io, la mia domanda era, mio papà si ammalò 35 anni fa, un tumore alla prostata. Io sono costretto a fare degli esami particolari, devo evitare qualcosa, non devo evitare. E poi un'altra cosa, si parla sempre di prostata e meno male che se ne parla in trasmissione di medicina, però non si parla mai dell'apparato urinario come rene, vescica, come mai? Perché Salvo lei non ha sentito Cuore Denario, Essere Benessere, se va nel nostro archivio troverà delle puntate proprio dedicate ai temi di cui lei notava la mancanza, quindi la invito ad andare sul nostro sito a recuperare la notizia dalla la trasmissione dal nostro archivio. Ma professore Salogna, Andrea. Allora, il nostro amico Salvo ci offre l'opportunità di parlare di un altro grande tema a cui abbiamo accennato all'inizio, cioè la salute prostatica intesa in senso questa volta oncologico, la possibilità che a carico della prostata compaiano tumori. Ricordiamo due dati importanti. Primo, il tumore della prostata è il primo e più frequente tumore maschile e ad oggi non si deve dimenticare che purtroppo di tumore maschile alla prostata si può morire. Quindi il dato importante è non è da trascurare. Salvo ha fatto una giusta domanda. È più facile che un uomo che abbia avuto un parente, un familiare stretto come il papà, affetto da neoplasia prostatica, debba fare dei controlli differenti? Il controllo in realtà è legato all'assiduità dei controlli, cioè è sufficiente fare una valutazione semplice, come un esame del sangue, si chiama antigene prostatico specifico, PSA è l'acronimo, e questo ci permetterà già di dare un'indicazione. È certo vero che un malato che abbia un familiare nella sua storia con una pregressa neoplasia prostatica debba essere più frequentemente controllato o controllato, diciamo, con maggior assiduità. Questo è certamente vero. Paolo, buongiorno da Milano, 800 24 00 24. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo proprio parlare del valore. Io ho 51 anni, ho fatto appena adesso il PSA e ho 1.2, che in teoria è bassissimo per 50 per l'età. Ecco, volevo sapere se in base a questo valore mi posso ritenere fuori da un probabile futuro tumore alla prostata o è un valore così che può dire tutto e può dire niente. Il suo è un capitolone, perché sì, da sempre si dibatte sulla natura, sì, ambivalente di questo test, che se da un lato ha permesso di salvare molte vite, dall'altro canto ha anche creato il rischio di un eccesso di terapia. Andrea, sì, questa è una polemica purtroppo esistente. PSA della discordia. Il PSA della discordia è proprio una polemica. In realtà diamo solo due cenni su che cosa è il PSA. Il PSA è una proteina, è un enzima e serve funzionalmente a sciogliere il liquido seminale, facilitando agli spermatozoi il loro compito. Questo è il ruolo del PSA. È stato scoperto ormai più di 20 anni fa ed è un marcatore che gli urologi chiamano organo specifico, non malattia specifica, da qui il quibus delle discussioni, cioè è un marcatore rilasciato dalla prostata, esclusivamente dalla prostata. Purtroppo non esiste un rapporto di 1-1 tra ho un PSA elevato e ho un tumore della prostata. Tornando a Paolo, il valore di 1.2 è un ottimo valore. Perché quale dovrebbe essere il valore? Oggi si ritiene che il valore debba essere connaturato all'età, mm-hmm, e immaginatevi che il primo dosaggio viene suggerito dalle società scientifiche attorno ai 40 anni e si ritiene che chi attorno ai 40 anni, 40-45, abbia un valore superiore a 1 debba essere controllato più assiduamente negli anni successivi, nei 25 anni successivi, di chi abbia un valore inferiore a 1. Paolo ha 51 anni e ha un valore di 1.2, quindi ci riteniamo assolutamente tranquilli che in questo momento la probabilità di avere una neoplasia prostatica sia molto bassa. Non esiste purtroppo la possibilità di escludere a tutto tondo che Paolo abbia nei prossimi anni un tumore prostatico. Oggi possiamo dire ragionevolmente che la scienza e i dati di clinica ci possano dire la probabilità è estremamente bassa. Perché questo il PSA, sì, è basso, ma anche se il PSA fosse alto non sarebbe detto necessariamente che ci sia una neoplasia. Banalmente abbiamo parlato prima di prostatite, immaginatevi che anche un ragazzo di 20 anni che ha una probabilità risibile di avere un tumore prostatico, dopo una prostatite acuta potrà avere un PSA di 50, di 30, di 20, che è certamente preoccupante se decontestualizzato rispetto alla clinica, ma l'avere un'infiammazione importante della prostata induce un incremento dei valori di PSA. Che cos'altro induce un valore di PSA più elevato? L'ipertrofia prostatica, quella prostata che si ingrossa e che da un punto di vista dell'età invecchia, che abbiamo detto prima. È molto più facile che un'ipertrofia prostatica si associ nel corso del tempo ad incremento dei valori del PSA. È per quello che oggi dare un valore assoluto, benché si tenda ad utilizzare quello che si chiama in termini scientifici cutoff, cioè un valore di riferimento oggi attorno ai 2,5 nanogrammi millilitro, per dire al di sopra o al di sotto le cose cose sono diverse, ma stiamo sempre parlando di qualcosa estremamente criticabile, perché va sempre contestualizzato all'ambito con cui ci si riferisce. Allora, due domande dal 349-238-6666. Invito naturalmente i nostri ascoltatori a comporre il nostro numero verde per tenere aperta questa linea, questa sorta del medico risponde, per sapere tutto e di più su questa ghiandola, la ghiandola virile per eccellenza. Se durante la prostatite si possono avere dei rapporti sessuali, e un altro ascoltatore, Mauro, questa volta si firma da Varese, se, che relazione c'è tra prostata e appetito sessuale, ovvero ci scrive il testosterone. Qua facciamo un po' di Macedonia, ma parliamo un po'. La ghiandola virile è virile per questo. Tutto e nulla, ma allo stesso tempo è un po' rappresentativa dello stato di salute maschile. Prima di tutto parliamo dei rapporti sessuali, prima domanda. In realtà un uomo che soffre di una prostatite acuta, devo essere molto onesto, ha ben lungi l'idea di avere rapporti sessuali, perché lo stato di disagio, di dolore, di infiammazione che prova è tale da gli togliono qualunque desiderio. Quindi il che non vuol dire che le erezioni non ci siano. Noi abbiamo delle erezioni peniene nel corso della notte, in quelle che si chiamano fasi di sonno REM, le fasi di sonno più profonde, che abbiamo da quando siamo in pancia alla mamma e fino alla più tarda senescenza. Quelle in linea di massima compaiono, ma da lì al dire avrò un rapporto sessuale perché ho desiderio di averlo, le cose sono molto distanti. Quindi diciamo che è un po' nemica dell'eros la prostatite. La prostatite toglie è ogni un po' fantasia, cioè magari la fantasia rimane, ma la voglia non viene. Mentre l'altra domanda, adesso me la sono persa, quella di del Mauro, testosterone. Bravo. Allora, questo è un altro discorso importante. Però se è molto importante, se la cosa vi interessa, allora ci rilassiamo, spero, un po' con i mercati e poi ci tuffi, non ci sono, posso andare ancora un po' più avanti, magnifico Andrea, allora sì. Che meraviglia. Dai. Allora, qui il concetto importante è l'uso fa la funzione, che è un vecchissimo concetto della scienza, non sempre applicabile, in questo caso in parte lo è. Perché? Perché i dati di scienza ci dicono che a rapporti sessuali, quindi attività sessuale viva e vivace, corrisponde alla possibilità di un incremento dei valori di testosterone circolante. Il testosterone, abbiamo detto tante volte, è l'ormone maschile per definizione. Al contrario, bassi livelli di testosterone si associano a calo del desiderio, alterazione delle erezioni e quant'altro. Ora, non esiste una relazione stretta tra testosterone su e giù e prostata, benché la prostata viva di testosterone, si nutra di testosterone, ad oggi non possiamo dire che ho una prostata piccola e ho un testosterone basso, questo non esiste, e non è neanche corretto dire che ho un alto testosterone o maggiore probabilità di avere un tumore prostatico, perché la prostata ne ha mangiato tanto di questo testosterone e si è ammalata. Non è così. Tutti i dati di letteratura ci dicono che non esista correlazione tra ho questo valore di testosterone alto e ho un maggior rischio di tumore prostatico. Anzi, al contrario, i dati sembrerebbero sottolineare come tanto più basso è il testosterone, tanto maggiore è lo stato di scarsa felicità prostatica, torniamo al tuo dire di prima, in senso oncologico. Allora, prostata felice, istruzioni e per consigli l'uso. E per l'uso 800 24 00 24, saltate, superate la barriera rosa, andiamo insieme a sentire i mercati e torniamo subito dopo con Vincenzo da Roma e Paolo D'Ancona. Denari. Io a Roma abito in un condominio, a fianco a me c'è una vecchietta che tiene il televisore altissimo, fortuna che abbiamo le pareti di carta velina, così riesco a abbassare il volume suo col telecomando mio, e quando facciamo le riunioni è un incontro di wrestling, l'amministratore ci perquisisce in tenuta antisommossa, una volta la signora Bartolini fa, signora Bartolini, senta, la dentiera la lasci qui, questa è arma da taglio, e in tasca che c'ha? La dentiera di mio marito, non poteva venire, ma data la delega. Condomini è il tema della seconda parte, dell'ultima parte di questa puntata, a partire dalle 11.45, 11.50, 800 24 00 24, il condominio in estate. A tra poco quindi con questo tema. Cos'è la prostata? Dunque sì, la prostata è facile. Ecco, dicesi di donna molto prostra in una... Ah, è la sua, insomma, ecco, dunque, dicevo che è una posizione, donna in stato di adorazione. No, ecco, mi sovviene, è un dolce, lo faceva anche mia mamma, è la prostata di, si può fare di metilo, di per... ecco, è l'imperatore romano, è l'eresiarca bizantino, Giuliano la prostata. Riprendiamo il tema del nostro della puntata di oggi, ultima puntata prima dell'estate di Salute Uomo, e quindi 800 24 00 24 per andare in vacanza con una prostata felice, che ci segnala spesso, vi segnala, perché no, noi almeno questa non ci tocca, ma di ritorno, ecco, per i vostri compagni. Sì, è vero, ecco. Vi segnala comunque il eventuali suoi disagi e malessere attraverso alcuni sintomi. Esatto. Uno di questi è ad esempio i problemi nell'urinare, ce lo stanno segnalando in tanti i nostri ascoltatori. Tra poco andiamo, Paolo D'Ancona e Vincenzo da Roma, siamo da voi, ma volevo leggere l'SMS di Girolamo che ci scrive: ho 46 anni, negli ultimi anni ho notato un netto calo della potenza del mio getto urinario. È fisiologicamente normale o può essere sintomo di ipertrofia prostatica o di altre patologie legate alla prostata? Abbiamo una risposta e soprattutto abbiamo fatto di più per voi. Abbiamo messo online sul sito per la di Salute prostata. Uomo, per la prostata prostata, un test che si chiama Scala di Punteggio Sintomatologico Internazionale, un nome lungo, per dire 7 domande che permettono di individuare i 2 grandi gruppi di sintomi, uno dei quali è esattamente quello a cui faceva riferimento il nostro amico con l'SMS, cioè i disturbi che possono segnalarci uno stato di disagio della prostata, in realtà del basso apparato urinario. Gli inglesi usano l'acronimo LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, che vuol dire disordine del basso apparato urinario. Bene, che cosa vuol dire? Un po' di confusione. Un po' di confusione. Insomma, un raccordo anulare. Esatto, perché? Perché in pratica noi abbiamo quelli che si chiamano disordine della fase di riempimento. Banalmente, devo andare più frequentemente in bagno durante il giorno, devo andare più frequentemente durante la notte, sono svegliato dalla necessità di andare in bagno, ho una certa quale urgenza, prima potevo dire vabbè vado fra un quarto d'ora, adesso ragazzi se non avessi un bagno potrei anche perdere qualche goccia, talvolta mi capita pure di perderla, oppure fase di svuotamento, cioè tutti quei disturbi che iniziano con il mio getto è molto meno potente di quanto non fosse prima. Per tendenzialmente, questo state così tanto tempo in bagno? Esatto, e ti dirò di più fra poco. In realtà se mi mettevo prima però io ho scoperto di essere figlio di mio padre quando dopo i 40 anni ho cominciato ad avere la necessità di andare molto più spesso in bagno e di starci di più rispetto a prima, e la storia si è ripetuta lì, l'ho anche scritto da poco nell'editoriale che io vi invito a leggere, perché ecco, segue un po' le fasi, no, le di fasi vita, della vita di un uomo, anche da quando si fa la pipì addosso, che quando è bambino, perché la pipì d'angelo, esatto, e poi vedi come cambia, andate a leggerla, siamo, perché è bellissimo, fino a quando non siamo un quindi, po' più adulti. Rimandiamo a questo test, due gruppi di sintomi, quelli della fase di riempimento e quelli della fase di svuotamento. Il nostro amico aveva sintomi della fase di svuotamento, un getto più debole, talvolta devo usare un po' la spinta dell'addome per riuscire a svuotarmi, e ho anche la sensazione di non essermi completamente svuotato. In questi casi cosa si fa? Ecco, esistono prima di tutto gli urologi, i nostri specialisti per la prostata e per la salute maschile dell'apparato urinario. L'altro aspetto importante, banale, esiste un test che si chiama uroflussometria, in cui faccio la pipì in un imbuto particolare che ha un particolare metodo di registrazione, che ci dice, bene, in questo lasso di tempo hai urinato questo volume, e questo ci permette di dire, per alcuni parametri matematici che vengono poi interpretati, il tuo flusso non è più quello dei 20 anni. In primo luogo siamo noi medici di noi stessi, anche, quindi lo interpretiamo. Anche chi fa la pipì lo sa, certo, che non è più assolutamente quello. Ma a voi sì. Medici cosa aggiunge questa informazione? Questa informazione ci dà un grado di severità della diminuzione del flusso, cioè del sintomo menzionale e del segno di menzione, e altro dato importantissimo, ci permette di dire, perfetto, i flussi possono essere deboli, il paziente non ha disturbo, non trova disagio da questo, ma in vescica rimane più del doppio dell'urina che è riuscito a svuotare. Quindi? Questo è un segno molto grave, vuol dire che la sua vescica, a causa spesso della sua prostata arrabbiata e poco felice, non riesce a svuotarsi, e questo è prodromico di danni ben più seri. E quindi bisogna assolutamente farsi valutare con attenzione. Quindi, tanto per parlare di controlli, prima di fare il salto ad Ancona, sì. Controllo del PSA, della discordia intorno ai 40 anni. Esatto, giusto? Perché quello vi dirà come saranno le cose nei prossimi 25 anni. Andiamo a compilare il test sulla pagina di Salute Uomo, vediamo un po' se avete dei problemi più nell'andato o nel ritorno. C'è anche una leggenda che vi permette di dire io sono qui, io sono là, da mancanza di sintomi a sintomi anche severi. È molto facile usare veramente in modo molto molto agevole. Con i sintomi molto severi si parla con il medico di base, si va dall'urologo, ci sono degli esami per evitare che rimanga che l'urina. I sintomi siano espressione di danno severo. Tenete conto che il medico di base è sempre bene che venga consultato. Il medico di base è il vostro primo amico, lo specialista è il secondo amico, spesso si salta il primo passaggio, va bene comunque, ma è comunque importante che laddove i sintomi compaiono e fossero di disagio, qualcuno che sia esperto nel campo venga ad essere consultato. Allora, botta e risposta, il medico risponde, bam, partiamo con Paolo d'Ancona. Paolo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Professore, mi scusi, la mia è una domanda un po' articolata e forse un po' avanti la vostra scaletta. Parlo di intervento di prostatectomia per carcinoma. Sì, di dire che anche se demolitivo oggi si sono raggiunti dei livelli sicuramente di precisione, no, di esattezza, per cui si possono rincuorare i pazienti a effettuare questo intervento e con possibilità di recupero direi molto buone, molto buone. Allora, in questo senso poi mi dirà. Sì. Paolo, devo chiederle però di andare al punto, mi scusi, sì, Paolo, in questo non senso, voglio essere. Lei si sentirebbe di spezzare una lancia a favore del fatto ai suoi colleghi invitarli, agli anatomopatologi, a essere un po' meno tutelanti e prudenti nella classificazione del tumore, in modo di permettere ai chirurghi di poter operare più precisamente? La sua è una domanda un po' capziosa. Se posso dare un giudizio, lo specialista urologo fa il suo mestiere ed è sempre coadiuvato molto bene in realtà dall'anatomopatologo, che ci dà un'indicazione della severità delle cellule malate all'interno della prostata. Ha ben ragione nel dire che oggi le tecniche, soprattutto le tecnologie, ci hanno aiutato ad implementare e migliorare moltissimo la capacità di operare i pazienti, assicurando loro nella stragrande maggioranza dei casi un ritorno a funzioni sessuali in parti e certamente di continenza molto molto buono. Allora passiamo a Vincenzo da Roma, buongiorno, grazie Vincenzo. Pronto? Eccola. Buongiorno professore, guardi, buongiorno. Io sono una quindicina d'anni che soffro di ipertrofia prostatica, no? Perciò prendo dei diuretici che sono vasodilatatori. Adesso a metà settembre devo fare un'operazione alla cateratta e mi hanno detto di sospendere i diuretici vasodilatatori per 20 giorni prima dell'operazione. Succede niente, insomma. Allora, mi permetto di dirle che bisogna fare un po' di precisione. I diuretici in linea di massima non sono utilizzati per trattare problemi prostatici, hanno una funzione molto specifica sul rene. I vasodilatatori, dei quali alcuni hanno capacità che si chiamano alfalitiche, servono per rilassare la muscolatura della prostata e facilitare la minzione. Esistono dei farmaci di categorie in parte afferenti a quelle di cui ho appena parlato, in parte afferenti alla categoria degli antimuscarinici, per i quali sostanzialmente è preferibile una sospensione temporanea. In linea di massima, una sospensione di breve durata non comporta danni rilevanti alle caratteristiche menzionali. Andiamo a Mario che ci chiama da Torino. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno. Allora, io all'inizio, diciamo, mi sono accorto che il gettito era inferiore alla notte e mi svegliavo più volte per andare in bagno, no? E così ho pensato di fare una visita. Il dottore che mi ha visitato, ovviamente, lo specialista, mi ha fatto fare una ecografia, la prova, via dicendo. E com'è finita, Pierpaolo, la messa in terapia, giusto? Per arrivare un po' al sodo. La messa in terapia, ok. Però dopo 6 mesi E vabbè, ho preso poi quelle medicine generiche, sono ritornato, ho visto che c'era un calo sul rapporto sessuale, non come prima. Allora, sì, abbiamo la relazione tra terapia per esiste. E attività sessuale. Beh, c'è Pierpaolo, un calo? Diciamo due cose di Pierpaolo, sì. Veloci. Pierpaolo aveva sia sintomi della fase di riempimento, doveva alzarsi spesso durante la notte, che sintomi della fase Mario, di svuotamento. Sì, Mario. Mario, scusatemi. Sia sintomi della fase di svuotamento, cioè il getto era più debole. Esistono farmaci che possono avere un impatto sulla sessualità, alcuni riducono la capacità di eiaculare, cioè al momento dell'orgasmo non si vede sperma uscire, questo è il primo aspetto, ce ne sono altri che possono ridurre la qualità del desiderio legato alla sessualità. Quindi insomma non è proprio una passeggiata. No, però ci sono, certamente ecco, no, ma perché noi non siamo semplici, gli effetti collaterali possono esistere, si possono modulare i farmaci in funzione delle necessità dell'individuo, si chiama medicina personalizzata, cioè andiamo a fare una sorta di vestizione corretta come un sarto su misura delle caratteristiche dell'uomo. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, il professor Salogna si ferma, noi poi per rispondere a Pierpaolo che ci chiama da Trieste, sì, poi noi volentieri. Passiamo all'ultimo argomento di Cuore Denari di oggi, che è il condominio, vi presenteremo anche una bellissima iniziativa del Sole per la prossima settimana. Andiamo a sentire le strade e poi torniamo insieme. Cuore e denari. 800 24 00 24, ghiandola virile per eccellenza, rendiamola felice, manteniamola felice ed efficiente. Pierpaolo da Trieste, una domanda per Andrea Salogna, benvenuto Pierpaolo, vada. Poi. Allora, io ho 60 anni, ho fatto recentemente delle analisi, il mio medico di base mi ha detto fai anche il PSA, ho un PSA ridicolo 0,35. Bene. E ho una vita sessuale attiva perché sono una moglie giovane, ho dei bambini molto piccoli però mi sono accorto che ho un certo rallentamento nella minzione e se ho ben interpretato quello che lei ha detto, come dire, un PSA basso dovrebbe essere un indicatore di non ingrossamento prostatico, quindi le due cose non le tornano. No, in realtà, se posso permettermi, in realtà il PSA può esprimere, crescendo di valore, un incremento dimensionale della prostata, ma non c'è nessuna correlazione tra il fatto che lei abbia un PSA di 0,35 e delle difficoltà menzionali, nel senso che, come abbiamo detto prima, è una molecola, un enzima organo specifico ma non malattia specifica, per cui è perfettamente ragionevole il fatto che lei abbia un bassissimo PSA e dei disturbi nell'urinare, ivi compreso il fatto di avere un getto più debole, pur in presenza di una sessualità vivace e assolutamente sana, per cui se posso dare un giudizio, se questo rallentamento del flusso fosse per lei di disagio e arrecasse nocumento alla sua qualità di vita, si rivolga al suo specialista o al medico di base e racconti esattamente quello che ha raccontato noi, perché sicuramente si troverà una soluzione, sempre che questo fosse di disagio, perché medicalizzare un problema che non lo è diventerebbe un errore. Allora, grazie ad Andrea Salogna. Tu ti fermi, Andrea, perché vivrai in un condominio anche tu. Sì, assolutamente. Lascerai magari la tua casa e quindi tanti problemi, magari qualche imprevisto, ci tuteliamo. Mando il mio papà a discuterli, è molto più bravo di me. E intanto, dove trovare il test? Sulle pagine di Salute Uomo, correte a compilarlo. 800 24 00 24, il nostro numero verde è attivo, iniziate a comporlo per intervenire sul secondo tema di oggi di Cuore Denari, che riguarda, guarda, come anticipato, il condominio. E come l'universo, questo nostro condominio raccoglie uomini e diversità. Bene, a volte può essere proprio l'estate con i suoi imprevisti a portare nuove spese ad un condominio. Come fare per prevenirlo, comunque per gestirle al meglio? Lo chiediamo questa mattina all'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale dell'Assocond, Associazione Italiana Condomini, che iniziamo a salutare. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Avvocato, qual è il consiglio più importante secondo lei per chi lascia il condominio per un lungo periodo estivo e per chi resta in condominio? In un condominio che immaginiamo un po' vuotarello. Sì, i condomini si stanno svuotando, è un diciamo che da metà luglio in poi è cominciato l'esodo, però c'è abbastanza un turnover, insomma vanno e vengono. In ogni caso, quando si lascia l'immobile, diciamo di massima incustodito, viene normalmente chiudere bene le finestre, chiudere, sì, mettere gli allarmi, mettere tutto quant'altro, soprattutto ovviamente quando ci sono magari lavori in corso, sì, perché stiamo attenti. Normalmente si dice sì, quando c'è il ponteggio poi risponde il condominio, non risponde l'impresa e quant'altro, ma sono sempre problemi. Insomma, è chiaro che quando ci sono lavori in corso l'attenzione del condomino deve salire veramente a mille, no? Quando lascia, certo, l'immobile. Ovviamente poi per chi resta vale la stessa cosa, perché si sente un po' abbandonato, no? E anche l'amministratore deve stare un po' in guardia, perché non è che l'amministratore può così abbandonare il condominio nel momento estivo e andarsene in ferie. Potrà farlo naturalmente se prende anche lui le debite precauzioni, no? Cioè lo studio, perché deve essere l'amministratore, può essere, deve essere raggiungibile. E questo senz'altro, perché fa parte un po' del suo mandato, no? Non è che può abbandonare il condominio nel periodo estivo. Il periodo estivo, cioè, è vero che le attività si rallentano, ma comunque le necessità dei condomini non per questo sono meno tutelabili. C'è meno interventi, certamente, ma diciamo che il pericolo è sempre dietro l'angolo. L'intervento urgente, soprattutto nel mese d'agosto, dove possono capitare magari improvvisi acquazzoni, allagamenti e quant'altro. Quindi per casi straordinari, naturalmente nessuno di noi se lo augura, ma l'amministratore può essere obbligato a rientrare per svolgere le sue mansioni? Dipende. Noi vogliamo lasciarlo in vacanza, no, perché, certo, vuol dire tutto, no, bene. Noi lo lasciamo. Però deve anche proteggere il condomino. Come? Con una buona organizzazione. Non è un caso che anche la riforma, no, del condominio è intervenuto sulla figura dell'amministratore, dando sempre una qualifica quasi addirittura imprenditoriale. L'amministratore che è lui da solo in studio, insomma, in questo caso deve, potrebbe correre il rischio anche di rientrare dalle sue vacanze, mentre se ha un'organizzazione di studio tale da assicurare comunque i servizi, ben venga. L'importante è che il condomino sia tutelato, insomma. Questo è il suo avvocato dovere. Abbiamo letto di un'iniziativa a Milano, la badante di condominio, non so se Andrea Salogna ne aveva sentito parlare. Comunque un modello di assistenza condivisa che può essere applicato in contesti diversi e rivolto a soggetti che non necessitano naturalmente di assistenza continuativa, oppure a famiglie che hanno bisogno di specifiche forme di supporto. La sperimentazione coinvolgerà 6 persone, tutte residenti nello stabile di Piazzale d'Ateo, con un assistente familiare disponibile per 24 ore settimanali. Avvocato Cirla, la conosce sicuramente questa iniziativa? Sì, ecco, la come la... anche a me sembra bellissima. Guardi, la condivido perché fu addirittura oggetto di discussione quando ancora si doveva entrare la riforma del condominio, in fase di commissioni che si erano formate, ovviamente se ne parlò. In che senso? E non fu totalmente abbandonata, perché mi ricordo che c'erano più di un componente che portava avanti questa iniziativa come servizio sociale a favore del condominio. Si parlava di occupazione delle parti comuni, l'ex locale portineria o locali magari in disuso per il condominio, oppure appositamente creati, perché oggi con le nuove costruzioni si fanno questi locali per attività condominiali, proprio per questo servizi comuni a tutti i condomini. E ricordo perfettamente che se ne parlò di questa idea di avere questa badante. Erano due le porte: o la badante o servizi per comuni per andare a fare. È un po' più che una badante, è un po' un angelo custode del condominio, tanto per renderla, no? Perché badante mi sembra un tema, no? Sì, che badante dice? Nel senso che bada ai condomini, sì, ecco, diciamo in questo senso. In comunque questo una bella senso. Iniziativa, secondo lei prenderà piede, come si dice? Guardi, se posso dire, se i condomini la smettono un po' di essere un po' individualisti, soprattutto nelle realtà, sicuramente lo prenderà, perché è un'esigenza sentita. È un'esigenza sentita, e anche in questo caso l'intervenuta riforma dà i poteri all'amministratore, quindi all'assemblea, di dare corso a queste certo. iniziative, no? E quindi insomma noi come Cuore Denari ci mettiamo il bollino blu, ci piace molto, eh? In chiusura voglio ricordare anche all'avvocato Cirla che da lunedì 3 agosto il Sole 24 Ore dedicherà per tutta la settimana due pagine ai temi che riguardano la casa e il condominio. Sono 40 appuntamenti in 4 settimane per impostare un'efficace manutenzione dell'economia quotidiana di famiglie e risparmiatori in vista della ripresa di settembre. Quindi il nostro quotidiano propone per tutto agosto un nuovo strumento quotidiano di approfondimento, Estate con il tuo amico Sole, che mi piace molto anche come, no? Che è un check-up a 360 gradi dalle tasse sulla casa, alle spese condominiali, dalle scelte per la pensione ai nuovi contratti di lavoro, gestione della liquidità, al portafoglio degli investimenti, insomma non perdetevelo. Intanto io ringrazio l'avvocato Cirla, grazie avvocato, non se lo perda neanche lei, eh? No, assolutamente. Mi raccomando, assolutamente. Da lunedì al venerdì due pagine speciali, se le beva d'un fiato. Professor Salonia, Andrea, grazie per essere con noi. Grazie a voi, ci ritroviamo buona a settembre. Estate, buon agosto. Andrea Roccabelli, regia la parte tecnica, sorridente, sempre una garanzia e bravissimo, come la bella e bravissima Esotta Scenna che mi aiuta in redazione. Grazie, è tutto, buona giornata e buon weekend.